1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci, sono le 7:19 minuti. Buongiorno cari ascoltatori, forza, come io ormai vi ho appellato, mio popolo di devoti e debosciati che siete ancora a fare le vostre sontuose ed eterne colazioni. Dovete produrre per il paese e allora andate, noi andate, però state anche qui su Radio 24, muovetevi, ma ci sono tanti modi per ascoltarci. Nel giorno in cui si apre la 55esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché per l'abolizione delle province, sarà quella buona? Staremo a vedere. Intanto avremo ospite, vi ricordo, alle 8:15 due candidati alle europee, Michele Boldrin, capolista di Scelta Europea nel Nord-Est, e Giovanni Alleva, candidato della lista Tsipras, sempre nel Nord-Est. Sono due economisti, sono un economista e un giuslavorista. Parleremo di cosa può servire come ricette per l'Italia per rilanciare l'economia, a partire da quello che in Svizzera è stato bocciato. Infatti avremo ospite anche un esponente, un deputato cantonale al Gran Consiglio per i Verdi in Svizzera, Sergio Savoia, perché è stata bocciata in Svizzera, tra poco lo vedremo anche in rassegna stampa, la proposta per referendum di alzare il salario minimo a tutti i lavoratori in Svizzera. Parleremo insomma un po' di economia in questa bella campagna elettorale densa di contenuti, ricca di spunti per le europee, tra Hitler, Pol Pot, Robespierre, Charlie Chaplin, Buffoni, Gnocco Fritto. Questi sono gli scambi sul programma che si sono lanciati negli ultimi 48 ore i maggiori candidati, anzi non sono candidati ma diciamo i leader dei maggiori partiti. E va bene, partiamo da qui, da una sciagurata lettura dei giornali, perché oggi il livello dei giornali è questo, sciagurato, uso questo aggettivo. Via i giornali! Questo lunedì 19 maggio, l'apertura del Sole 24 Ore del lunedì, tasse sul risparmio, ecco chi paga di più, questo è il titolo, un'analisi, a Milano prelieva il top sui conti, minimo a Crotone, come sono le tasse sul risparmio. E poi le aperture sono diversificate dai vari giornali, anche perché appunto non c'è una notizia che si impone sulle altre. Il Corriere della Sera dedica 3-4 pagine all'Expo, così il decreto per salvare Expo, questo è il titolo di prima pagina, poteri a Cantone, più uomini e mezzi, accesso agli atti. Per Repubblica, l'ultima settimana di campagna elettorale, Renzi sfida Grillo, non votate i buffoni, e Tasi oggi si decide. Sapete che c'è ancora da decidere il possibile rinvio del pagamento della Tasi. Renzi, non votate i buffoni, anche il titolo di prima pagina dell'Unità, mentre La Stampa ha un'apertura sulla nuova sanità, parti senza dolore e ticket più bassi. Il Giornale, Alfano si butta a sinistra, cose da pazzi. Il Messaggero invece all'apertura su Alitalia e Etihad, arriva l'accordo. Mentre il Giorno, guerra ai taxi online, la protesta dei tassisti di Milano. Il Fatto Quotidiano invece, l'edizione del lunedì, è andato a Monte Carlo a partire dalle tracce dell'ex deputato Amedeo Matacena. Monte Carlo, caccia al ladro, e c'è la foto di Matacena e la moglie nel fotomontaggio, no? Di una scena tratta dal film proprio Caccia al ladro di Hitchcock. In questo caso i protagonisti del Fatto sono Matacena appunto e la moglie. Comunque io voglio partire da che cosa? Bene, approfondiremo poi la vicenda alle 8:15, ma come detto, in Svizzera ieri si è votato per referendum e ha stravinto il no. Si voleva alzare a 3.200 euro, 4.000 franchi, lo stipendio minimo per tutti i lavoratori in Svizzera. Ha stravinto il no, per l'appunto, no al super salario minimo, la Svizzera resta flessibile. Questo è il titolo per esempio di pagina 16 del Corriere della Sera con Claudio Delfrate, che racconta, svanita in pochi minuti, l'illusione che la Svizzera potesse diventare l'Eldorado dei lavori salariati con una schiacciante maggioranza del 76,3%, è stato bocciato il referendum con cui si voleva introdurre uno stipendio minimo per legge di 4.000 franchi, pari appunto a 3.200 euro, che avrebbe significato la paga base più alta del mondo. In concreto svanisce soprattutto il sogno per i circa 60.000 italiani che lavorano nella Confederazione Elvetica di vedere la loro retribuzione equiparata a quella degli svizzeri. L'iniziativa referendaria era nata con uno scopo preciso: frenare il ricorso a forza lavoro non elvetica, che è pronta ad accettare paghe più basse della media, dando luogo a un fenomeno di dumping salariale. Se a febbraio i partiti di destra avevano dato una risposta a questo fenomeno proponendo e vincendo un referendum col quale si chiedeva al governo di introdurre per legge un tetto all'impiego di lavoratori stranieri, da sinistra invece si è cercato di contrapporre una diversa impostazione, cioè l'innalzamento dei salari. La consultazione comunque aveva un valore poco più che simbolico, scrive il Corriere. Infatti nella Confederazione il 90% dei dipendenti ha già una busta paga ben più pesante di 4.000 franchi mensili. Anche il giornale dedica con pari de pelli una pagina a questo tema. Il referendum non passa, la Svizzera boccia il salario minimo d'oro. È una sorta di modo per non farsi invadere dai lavoratori del sud. Questo è il sottotitolo. E comunque parleremo, visto che di salario minimo se ne parla anche sia a livello europeo sia anche in Italia, cercheremo di capire se questa può essere una ricetta o se non è sostenibile dal punto di vista dei conti pubblici. Ciò che non è sostenibile, cari italiani, cari ascoltatori, è leggere quello che trovo in prima pagina del Secolo XIX e che mi spinge a dire, se siete al volante, come al solito, le mani ben strette sul volante, e se avete il solito caffè bollente, appoggiate un attimo la tazzina, che poi non voglio che vi scottiate dando la colpa a me. Succede in Italia. Il Secolo XIX, prima pagina, Franco Nicastro. Siamo a Cerzeto, in provincia di Cosenza, dove una terribile alluvione aveva spazzato praticamente nel 2005 la frazione di Cavallerizzo con 581 abitanti. Una frana del 2005 aveva sconvolto l'intero villaggio, era tutto da ricostruire, è stato tutto ricostruito, è stato tutto consegnato alla cittadinanza, con un piccolissimo particolare molto italiano: è tutto abusivo e quindi da abbattere. Abusivo il villaggio disegnato dai Liguri e voluto da Bertolaso. Questo è il titolo di prima pagina del Secolo XIX. Cerzeto, in provincia di Cosenza. Mancava solo la fanfara, poi c'erano tutti: il prefetto Raffaele Cannizzaro, il sindaco Rizzo col suo vice, il comandante dei carabinieri. Quella mattina del 5 febbraio 2011, illuminata da un sole primaverile, si è vissuto un momento di gioia collettiva. Il più commosso di tutti era il signor Luigino Perrotta, che è sfilato tra i fotografi appostati le autorità schierate per ricevere dalle mani del sindaco le chiavi della sua nuova casa. Era toccato a lui il privilegio di aprire la lista dei primi 40 assegnatari delle unità abitative. Tutto pagato dallo Stato, progettato con criteri di modernità architettonica, costruito in poco più di 3 anni, a dimostrazione che quando si vuole anche un'opera pubblica può essere completata in tempi giusti. Tutto molto bello, ma tutto abusivo. Nella fretta di costruire questo gioiello residenziale, che tanto ricorda il modello realizzato all'Aquila, si erano dimenticati di chiedere la valutazione di impatto ambientale, in sigla al VIA. Non un adempimento burocratico rituale, ma un atto che stabilisce se un'opera di queste dimensioni si armonizza con l'ambiente. E la richiesta si presenta ovviamente prima dell'inizio dei lavori. A cose fatte, l'omissione diventa una irregolarità insanabile. E allora se ne sono accorti subito alcuni giovani, e una decina di famiglie di Cavallerizza avevano visto di cattivo d'occhio la nascita del New Town. E allora questo è successo e questo accade. 72 milioni di euro la spesa, bruciati, perché a questo punto secondo la normativa, ma siamo in Italia, siamo in Italia, quindi non è detto che finirà così, ma secondo la normativa andrebbe tutto abbattuto, tutto abusivo, evviva, d'altronde siamo in Italia. E vabbè, che dobbiamo dire? Questo è. Intanto andiamo a sentire un pochino di pubblicità e poi rientriamo in questa campagna elettorale. Oggi dicevo i giornali di una sciagurata lettura da parte mia. Prima sono stato anche un po' brutale su Twitter. Tra questo e un calcio nelle palle, oggi sceglierei la seconda tra la lettura dei giornali e appunto quella roba là. Ma d'altronde questo è. Il menù propone soprattutto gli ultimi scampoli, l'ultima settimana di campagna elettorale, con insulti e sempre più veementi tra i vari esponenti dei partiti politici, e ripartiremo da qui proprio tra un attimo. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, l'uomo con la pistola chiama Alessandro Milan, il buono, il brutto e il cattivo dell'informazione. E vabbè, allora cari italiani, eccoci qua a leggere, e cari ascoltatori di tutto il mondo ovviamente, eccoci qui a leggere ancora i giornali. È l'ultima settimana di campagna elettorale per le europee. Vi è piaciuta, non vi è piaciuta? È la solita campagna elettorale, pochi contenuti e molti insulti. In ogni caso, oggi il Sole 24 Ore fa una pagina interessante proprio di vademecum su che succede per il voto. Pagina 9, sapete quanti europarlamentari si vota domenica, si esprimono in Italia e si votano in Italia? Sono 73. Sapete e sapevate che il voto inizia già il 22, in Gran Bretagna e Olanda si vota il 22, poi alcuni votano il 23, altri il 24, noi in Italia il 25, fino alle ore 23, dalle 7 alle 23, e in tutto sono 382 milioni gli europei che andranno alle urne. Insomma, in questa pagina interessante c'è anche Antonello Cherchi, siamo a pagina 9 del Sole, che racconta come si vota. Ci sarà una scheda con al massimo 12 contrassegni, bisognerà tracciare un segno sul partito prescelto. All'interno della lista si possono esprimere fino al massimo di 3 preferenze, scrivendo nome e cognome, o anche solo il cognome, se non ci sono casi ovviamente di omonimia. Però attenzione, perché se voterete 3 persone, una delle 3 deve essere di sesso diverso dalle altre 2, almeno una. Altrimenti, se votate o 3 uomini o 3 donne, il terzo che avete votato verrà automaticamente cancellato. Ci sono infatti, c'è una legge che prevede bisogna esprimere 3 preferenze, ma non dello stesso genere. Se invece scrivete 2 candidati, potrete votare o 2 uomini o 2 donne, e questo va bene. C'è lo sbarramento al 4%, ma insomma è una interessante pagina per capire, orientarsi anche come si vota, perché si vota e perché cosa si vota. Pagina 9 del Sole 24 Ore, trovate tutto. E per il resto, che campagna elettorale è stata? Vabbè, anche ieri li avete visti i candidati. Non votate i buffoni, ha detto Matteo Renzi da Massimo Giletti. Beppe Grillo si è dovuto difendere perché aveva detto io sono oltre Hitler, e allora si è difeso così alle accuse. Ma come, ha tirato in ballo Hitler? Oltre Hitler c'è Charlie Chaplin, ha messo online il film Il Dittatore. Berlusconi invece, che ha ripetuto la questione Grillo mi fa paura, come Robespierre, Pol Pot eccetera, i più sanguinari leader dello scorso secolo. Insomma, una campagna elettorale nella quale di contenuti se ne sono visti pochi e si è sentito molto rumoreggiare, tanto che il Quotidiano Nazionale ha messo a pagina 2 e 3 proprio questo, cioè che tipo di campagna elettorale è stata. E guardate cosa ha fatto il Quotidiano Nazionale. Beh, intanto ha recuperato un po' di insulti. Hitler, Rebetino, Salma, Sciacallo, i leader fanno a gara di insulti e intervistano dunque a pagina 3 un espertone di insulti, Vittorio Sgarbi. Andrea Cangini lo intervista e in principio fu Vittorio Sgarbi ed è tutto un elogio. Sgarbi dice: certo, bravo, sono proprio così, sono orgoglioso di essere stato il primo ad inaugurare la tendenza dando della stronza in TV a un'aspirante poetessa. Io sono il padrino politico di Grillo e Grillo è un genio da questo punto di vista. Anche la battuta su Hitler o su Dudu da mettere in vivisezione mostra di essere oltre. È per questo che dico che è un genio. E poi tutta un'intervista dell'elogio del vaffanculo. Questo Sgarbi. D'altronde eviterei i moralismi. Se uno è di merda, gli dici merda e la gente sente che dice la verità. Vabbè, questo è il livello, per dire, pagina 3 del Quotidiano Nazionale, cioè l'apertura del Quotidiano Nazionale. Ieri c'è stato un profluvio di interviste, oggi ce ne saranno ancora. Ieri Casaleggio per la prima volta è andato in TV in diretta, intervistato da Lucia Annunziata, e ha detto tra l'altro: se vinciamo poi chiederemo un nuovo Presidente della Repubblica e chiederemo un nuovo governo con il governo dato al Movimento 5 Stelle. E tutti i retroscena fanno capire che i 5 Stelle lanceranno Di Maio, che attualmente è il vicepresidente della Camera, come possibile premier, possibile capo del governo dopo l'eventuale vittoria alle europee. Poi stasera ci sarà che cosa? Un altro giro di interviste. Ci saranno Beppe Grillo, che va a porta per la prima volta, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi in prima serata, gli ultimi due, mentre Beppe Grillo alle 23 da porta a porta. In tutto questo Berlusconi invece, in un'intervista a un quotidiano tedesco, Welt am Sonntag, ha chiesto scusa. Ha detto: forse mi sono espresso in un modo infelice, chiedo scusa a tutti i tedeschi che ho offeso. Era di recente la famosa frase nella quale Berlusconi disse: i tedeschi pensano che i campi di sterminio nazisti non siano mai esistiti. Dunque una sorta di mano tesa alla Germania. Berlusconi: scuse ai tedeschi sui lager. Questo pagina 9 del quotidiano La Repubblica, e dunque Berlusconi che chiede scusa. A proposito di scenari, c'è anche un'intervista a Paolo Becchi, che è considerato l'ideologo del Movimento 5 Stelle, che a pagina 3 del giornale intanto parla della quella che il giornale definisce Operazione Verità, e cioè il complotto che c'è stato, secondo Paolo Becchi, il complotto per far cadere Berlusconi, poi mettere al potere Monti, poi Letta e poi lo stesso Renzi. E dice Becchi anche questa frase: attenzione, ci sarà il successo del Movimento 5 Stelle che mi sembra percepibile, e vedrete che quando il Movimento 5 Stelle vincerà le elezioni europee nascerà l'idea di un governo di unità nazionale per tagliarlo fuori dall'esecutivo. Questo dice Paolo Becchi, intervistato oggi dal giornale. Vabbè, lasciamo la campagna elettorale, vediamo le cose concrete. Intanto a cominciare dalla Tasi, il balletto della Tasi continua, pasticcio Tasi, governo verso il rinvio. Ogni giorno si dice si rinvia, non si rinvia, si rinvia, non si rinvia. Sta di fatto che il 23 maggio c'è l'approvazione delle delibere entro quella data, e sembra una maledizione, come scrive La Stampa con Alessandro Barbera, ma il dato di fatto è che per la Tasi è possibile un rinvio. A questo proposito c'è un'intervista al sindaco di Torino, nonché capo dell'ANCI, dunque di tutti i comuni italiani, Piero Fassino, che viene intervistato da Repubblica. Intervistato da Repubblica dice: se la Tasi viene rinviata comunque ci vuole l'anticipazione dei soldi ai comuni, altrimenti i comuni rischiano il dissesto. Fassino: 2 miliardi ai sindaci se c'è rinvio. Intervistato da Roberto Mania, pagina 4 e 5 di Repubblica, dice il sindaco di Torino: se il governo vuole intervenire e prorogare i termini per il pagamento della prima rata della Tasi lo può legittimamente fare, è sovrano. Certo non spetta ai comuni decidere le scadenze per il pagamento di IMU e Tasi, ma sia chiaro, alla proroga il governo dovrà accompagnare l'anticipazione delle risorse ai comuni, che altrimenti finirebbero in ginocchio. Quando il Parlamento ha fissato ad aprire le modalità per l'applicazione della Tasi, negli oltre 4.000 centri che andranno al voto domenica erano già stati sciolti i consigli comunali. È evidente a tutti che a 6 giorni dalle elezioni un consiglio sciolto non può più deliberare, dice così Fassino. Sta di fatto che staremo a vedere è davvero un pasticcio sul quale anche il Corriere della Sera dedica una pagina oggi. Tasi verso la proroga, i comuni trattano, Del Rio dice presto si decide. Vero pasticcio. E a proposito di pasticci, Mauro Meazza, eccolo qua. Buongiorno Alessandro. A proposito di pasticci, perché come vedi anche il Sole 24 Ore questa mattina un editoriale intitola proprio Tasi e IMU, pasticcio senza vincitori, lo scrive il vice direttore Salvatore Padula. E tra l'altro, guarda, leggendo poi, ma l'editoriale spiega molto bene perché si è arrivati a questo pasticcio, ma mi stava venendo un'altra parola meno elegante, infatti. Dice che il quadro può persino peggiorare. Perché se poi c'è la proroga si infilano ulteriori modifiche e quindi rischiamo veramente di stabilire una sorta di poco invidiabile record della tassa più complicata del mondo. Non so se c'è un concorso di questo tipo, però se ci fosse possiamo iscriverci da subito. Speriamo in una proroga, magari, come al solito. Hai visto che invece siamo un po' bassini come laureati? Non so se hai avuto fatto caso. Sì, e c'è questa classifica bassini, siamo ultimi, diciamo. Volevo essere un po' più ottimista. Sei il solito ottimista, non sei un gufo tu, non sei un gufo. No, per carità, ma non era un endorsement politico, era che appunto ho appreso leggendo Gianni Trovati oggi sul Sole 24 Ore che purtroppo siamo ultimi per la quantità di laureati nella fascia tra i 30 e i 34 anni. Ci ha superato anche la Macedonia. Sì, anche la Romania, insomma, cioè, diciamo gente che dovrebbe avere meno da spendere quanto noi, rispetto a noi, per la formazione, quindi è quello lì un po' il dato preoccupante. Tra l'altro Gianni Trovati spiega che resteremo in ultima posizione almeno fino al 2020. Meno male che non è un pronostico di tipo calcistico, perché altrimenti sarebbe una sorta di condanna alla messa classifica, ma adesso non vorrei così girare il coltello nella piaga. Hai visto che quest'anno finalmente il campionato è incredibile, è stato sospeso per i mondiali, è un evento è finito. Alessandro, possiamo anche a questo punto dedicarci a guardare i mondiali, è finito in gloria per l'Inter soprattutto. Sì, insomma, diciamo che abbiamo concluso là dove si pensava di concludere, non così per altre squadre, ma non stavamo parlando di questo. Ti voglio segnalare che specialmente per i nostri amici professionisti c'è una pagina nella parte norme tributi sulle deduzioni per quanto riguarda lo studio professionale, che invito appunto da staccare e conservare, come si diceva una volta. E poi naturalmente tutto sul bonus IRPEF. Adesso sei contento, arriva il bonus IRPEF, vabbè, tu non lo prendi perché guadagni una cifra esorbitante e quindi non ne hai, giustamente non è stato previsto di versarlo a te, però insomma per gli altri invece è molto importante, anche per i datori di lavoro che devono erogarlo, c'è un riepilogo di tutte queste nuove regole. Volevi sapere altro sul Sole 24 Ore? Mi raccomando, su Esperto Risponde tutti i quesiti sulle dichiarazioni dei redditi. E a questo punto, Alessandro, non mi resta che dirlo. Lo dico? Dillo. Vabbè, lo dico, dai. Traffico! Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione! Perché da qui tutto nacque, dal panettiere dell'informazione, le vostre siglette che ci mandate, straordinarie. Allora, cari ascoltatori, che dire, oggi Alberto Alesina e Francesco Giavazzi scrivono un editoriale di prima pagina del Corriere della Sera per raccontare anche un po' la situazione economica. Il titolo è "Non si cresce di sole promesse, Renzi e la delusione dei fatti". Si parte dall'analisi del PIL, perde lo 0,1% come abbiamo visto la scorsa settimana. Scrivono Alesina e Giavazzi: per evitare una nuova caduta nella fiducia dei mercati è essenziale che dal giorno dopo le elezioni europee il governo acceleri sulle riforme promesse per cercare di aiutare l'Italia a uscire da una recessione che sembra non finire mai e che in 7 anni ci ha fatto perdere il 10% del reddito e 1.100.000 posti di lavoro. Finora il rapporto tra promesse e realizzazioni non è stato soddisfacente. Per esempio, la riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali arrivata in Senato apre alla possibilità di un contratto unico con tutele crescenti, ma non elimina la cassa integrazione, non spiega come verrà finanziato il sussidio universale per i disoccupati. Abbiamo bisogno di un mercato del lavoro flessibile, scrivono Alesina e Giavazzi, che permetta di riallocare la manodopera da un tipo di impresa all'altro. Ciò significa sostituire la cassa integrazione che oggi lega il lavoratore all'impresa, mantenendo in vita anche quelle inefficienti, con un sussidio universale che protegga i lavoratori e non i posti di lavoro e consenta al mercato di aggiustarsi. E poi le analisi sono abbastanza critiche, e cioè Matteo Renzi, scrivono i due economisti, sta perdendo di vista gli obiettivi più importanti. Nelle prime settimane decine di slide, raffiche di promesse servivano per dare al governo il necessario slancio iniziale, ma ora quella strategia rischia di dare l'impressione che il governo non sappia identificare le priorità. Occorre concentrarsi scegliendo pochi provvedimenti chiave, portando l'importo con una determinazione che invece si sta affievolendo. Per esempio, sulla pubblica amministrazione la riforma, provvedimenti annunciati, ma al momento non i fatti si fanno attendere. Insomma, questa è la critica un po' al governo da parte di Alesina e Giavazzi. A proposito di il provvedimento che fa molto discutere, c'è quello dell'Expo. Oggi il Corriere della Sera dedica le prime 5 pagine all'Expo con il tema un decreto dopo l'europeo, un decreto che consentirà a Raffaele Cantone, capo presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di controllare gli appalti, non vietarli ma almeno controllarli. E c'è un'intervista al sindaco di Milano Giuliano Pisapia che a pagina 3 dice ad Elisabetta Soglio: l'Expo è una sfida per tutti e se Milano vince sarà l'Italia a uscire da una situazione difficile. L'Expo non è Primo Greganti e Gianstefano Frigerio, cioè i due degli arrestati settimana scorsa. Lo dico con forza, Expo è solo una piccola parte dell'inchiesta. Siamo in grado di reggere l'impatto con 20 milioni di turisti. Abbiamo già dato prova di saper affrontare difficoltà quando abbiamo accolto 1 milione di visitatori in una settimana per il raduno mondiale delle famiglie. E dunque, dice Pisapia, con orgoglio, Milano ce la farà. Non è una nuova Tangentopoli, è una storia completamente diversa. Quello era un sistema di potere dei partiti codificato. Questo è un gruppo di persone che hanno cospirato con appoggi di singoli politici o ex politici. Così Giuliano Pisapia, sindaco di Milano, al Corriere della Sera dice: ce la faremo. Vabbè, sui giornali ci sono anche alcune cose interessanti, ma oggi veramente è uno scempio anche di articoli incredibili. Oggi la Carta Costa dovrebbe, per l'articolo, il premio per l'articolo più inutile scovato sui giornali, dovrebbe, come dire, avere almeno 5, 6, 7 articoli che vincono. Intanto vi segnalo, se volete, anche se la situazione è molto molto infieri, due articoli sulla Libia. Uno, Giampaolo Catalano su Repubblica: Libia nel caos, attacco al Parlamento. E soprattutto il Secolo XIX fa pagina 2-3 su anche un profilo di chi è l'ex generale Khalifa Belkacem Haftar, che è colui che piace agli Stati Uniti, scrive il Secolo, e in questo momento sta, dopo aver lavorato per formare un nuovo esercito e a capo di 200 soldati, è considerato l'uomo giusto per ripulire, usando questa frase dura, il paese dai fondamentalisti. È colui che sta combattendo, ma anche mettendo un po' a soqquadro la Libia. E poi, che dire, insomma, leggete alcune pagine, non so, La Stampa, una pagina sul primo passo per la carriera, arrivare presto al mattino. E vabbè, e io e Miriam Lucchetti e Peter Bescapè abbiamo una carriera assicurata. Sempre La Stampa: il futuro è nel bell'essere, il mix di salute e serenità. Una pagina. Il Giornale: dall'ira al cuore spezzato, nel corpo la mappa emotiva. Studio finlandese su l'ansia prende il petto, la sorpresa pure, la tristezza le braccia, la felicità tutto il corpo, il disgusto lo stomaco, così. Ecco, un'intera pagina. Ma vince, vince l'articolo più inutile, scovato sui giornali, sempre sulla stampa in prima pagina, Mattia Feltri, che dedica una pagina intera a Io e Annalena, a dividerci è soltanto l'IKEA. Una pagina di Mattia Feltri, la moglie e il rapporto con l'IKEA. Eh sì. Era un sabato mattina e il tempo era bellissimo, pioveva, gite fuori porte impossibili, pregustavo una giornata complementare al divano con giornali, libri e soprattutto Sassuolo Torino. E tu sei arrivata, Annalena, col sorriso infinito per cui ti ho sposata e mi ha detto «Amore, andiamo all'IKEA?» E inizia una pagina così. Ma... andiamo al giornale radio.